系天下，北京人民广播电台公益广告。 不管驾驶速度有多慢， 不管车上是否有乘客， 不管是否停在红灯前， 不管是否有车载电话或蓝牙耳机， 不管谁给我打电话， 我承诺开车时不使用手机。 开车时不使用手机，不是因为你的手没有放在方向盘上，而是因为你的心不在驾驶中。 北京人民广播电台提醒您，开车时请勿使用手机。 北京人民广播电台古典音乐有限频道，有线调频98.6兆赫，欢迎收听。颂生命，舞动青春，歌舞剧场，人生与梦想的舞台。北京音乐广播古典音乐有限频道，每天10点22点播出。 Mamma soltanto felice perché ritorno da te。 欢迎收听歌舞剧场，请欣赏齐雷亚的歌剧《阿莱城的姑娘》全剧录音，由罗西卡纳指挥，匈牙利歌剧院演出。 cadenza, niente, quasi non fossi di lor sangue. Poi se io non t'amassi, povero innocente, gli scemi in casa portano fortuna. Ce n'è al villaggio è chiaro come il sole. E non bisogna avreste per trovar moglie al vostro Federico di cercarla in città. Sì, anch'io lo dico. No, Federico è tanto innamorato, trova il sole e il fiore d'ogni virtù. L'Arlesiana l'ha stregato. Ma conoscete voi quella fanciulla per tirarmi in casa? Io no, per nulla. Così, senza conoscerla dunque, padrona Rosa, consentirete salutarla, sposa del fior vostro? Oh no! Ti rassicura, onor, come sai sta mio fratello? Padron Marco! Gli occhi quelli acuti o soli. Ma non per le civette. Oh, lo champagne! Marco, io rocco i fiocchi del veglio alla sordina. Un occhiato di cuore ti la una parolina. Facendo il gonzo innovo son certa scoprirò perfino il bel nell'uovo. Fra poco è qui per Sí. sono tutto riso Ma tremi tanto Amo d'amor Calmati E parla Alla mio cuor Io ti amo Marco Ecco Io solo son volato innanzi a te Tanto, tanto era il desio Di parlare a Dio primo Oh mamma, la mia bella Arlesiana non ha eguali sulla terra. L'amo, mamma, io sono beato. Uni tu dunque tanto Sposa chi amo la vita letto decise di sposare una fanciulla d'or e ver. Sì, viru. Li sentite come canta lassù? Si sta bevendo il bicchier dell'augurio. Sarà fine con che va. cerchi tu ancora non apparia la stella del mattin ricercare un mio già posto in fila l'ho chiamato per nome penetrando i canneti ecco soltanto rispondevi come la Ah! che facevi tu là? Nulla. Tua madre ti cercava e vivetta. Queste donne mi danno noia. Tu soffri. No. Tutto scordo Thank you. io vo tutte in orrore. Pur che parli d'un affetto antico, mi m'assicura se t'amassi mai, che ora dopo a questo limitore non ne cantare sogghignando a portare qualche tua lettera. Son pazzo io, non lo sai, lasciami dunque. Grazie. giuro e addio. Oh, Thank you. anche al nipote. Sabato e nozze, ma io la stessa sera mentre andrò a me thank you. sola. Perché tu servi qui? Non servo a nulla. Sì, le lettere sue. Tu sapevi, lo conservate, è vero, gran tempo. Usa male, vada a sarre, la riporrà tu. Oh, io la rapisco. Secol che gesta notte tu stai, la pianura percossa udirai, da un galoppo terribile. In sella, stretta a me, guiderà la mia bella, ma il suo grido quel vento ne andrà. Lasciami dunque! Allora scuda, con le strade sapersi un sei divina, tremor dalla paura, mutando gli occhi, e non aver mai voce del cuore, mai nella testa sua piede, è lo stesso sol, che mi è mio rivale! Io son darci sventura. Folli, folli son io, folli son io. Thank you. trascorre, nuoto tutta la notte, ma quando il sol spuntò, mi mise a terra il corpo sanguinoso. Sempre la vedeva nelle sue braccia, e la bacia, e la stringe, se la porta, sguaciala se ci le ferra le zampe del suo cavallo. Oh!